Che cosa sei? Io ho tanti di quei nomi. Il diavolo. Chiamami papà. L'anticristo ritornato, bicchieri di sangue, facciamoci il cin. Vengo da un posto di merda, merda da PTSD. Scendi a Tarantuna sera. Se ti diamo botte, ti leviamo il bling. Nelle mie storie mostri come i fratelli Grimm. Il tuo rapper non è un C, nei miei video non si balla. Non è Chris, non è merda chill, non faccio R&B. Ho una punto rotta, spinge come in Need for Speed. Tengo i soldi in frigo vicino alla speed. Da un'altra dimensione come un Duck TD. Sono rimasto nel tunnel come Lady Di. Vivo ancora giù in paese, non posso sentirmi un VIP. Io parlo una volta, niente doppie, niente ad lips. Dalle mie parti sono una leggenda come a Darle Mitch. Sperperò massa fra ciò che è gratto ad M.I. Sembrava un sogno, terroni rappano meglio dei big. Diventeranno big, poi saranno king. Grandi ammossi, il marciapiede, American History X. Da me si sparano davvero, non è un FX. A 15 anni ho chiuso il primo pezzo e non c'entravi il mix. Sono davvero P, gli altri rapper sperano in un fix. Nel rap game un glitch, sono pieno di chicks. Mi accanisco fino a disgustare i rissi. Io non parlo proprio come Mr. Bean, Y3P, la nuova 36, Mob Deep, Gucci. I miei danno, la bianca in strada sembra di stare nel Queens. Stragismo come la P2, la nuova DC. Siamo la nuova scuola, la BC. Scandalo al TG, 20k di scam da uno schifo di PC. Botte nel VC, push in P. Parlo solo di quello come Pusha T. Armati in un bar come Mi Street. Mezzo grammo di MD in un drink. 100k il primo anno solo con il deal. Vestiti falsi il drip, a bere la birra al sud. Mentre su fanno la Fashion Week. Sto contando i soldi, non conto gli stream. Sono il boss finale, questi rapper sembrano NPC. Anteroidissimo, io in un film come